orecchia, scolpite nel cielo per farsi guardare, finestre sul mondo con i loro profili, tutte storie diverse come uscite da un film. Passaggi obbligati nel cuore di un uomo da farle passare così come sono. Sulla terra dispersa, passaggi obbligati nel cuore di un uomo da farle passare così come.